Esattamente. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, io grazie per la presentazione, ringrazio Mauro per l'invito. Quindi adesso ci accingiamo a parlare di un argomento che, perché è vero che dobbiamo tornare alle materie prime, no? Non trasformate, però poi bisogna anche trovare la giusta quadra rispetto alle nostre vite, quindi andiamo al supermercato di fatto e andiamo a comprare alimenti già in qualche modo pronti per l'uso. La conservazione degli alimenti è un altro di quegli argomenti appunto che vengono spesso banalizzati, no? Conservare l'alimento sembra, lo facciamo da secoli, insomma, non si può sbagliare. In realtà appunto è un argomento tutt'altro che semplice da gestire e soprattutto è un argomento che ha avuto un'importanza storica perché senza la possibilità di conservare gli alimenti, insomma, diciamo anche noi, l'uomo non avrebbe potuto fare e portare avanti delle innovazioni. Lo sapeva benissimo Napoleone Bonaparte che per finanziare comunque le sue missioni, per promuovere no, le missioni militari, comunque si poneva il problema di dover dare a mangiare ai soldati, insomma, quindi poter mandare i soldati sempre più lontano, doveva comunque prevedere il sostentamento dei soldati stessi. E quindi lui stesso, capendo l'importanza della conservazione, aveva promosso un concorso dando 12.000 franchi come premio per promuovere la conservazione, per trovare un modo per dare agli alimenti una conservabilità che potesse quindi garantire ai soldati la sopravvivenza in territori molto lontani rispetto alla loro origine e ci sono voluti anni e tutto questo è ancora in evoluzione, quindi le tecnologie di conservazione continuano ad evolversi. Ora, quindi, è un argomento molto banalizzato, ne parliamo tutti perché siamo tutti ovviamente consumatori di alimenti, perché dobbiamo porci la domanda come conservare gli alimenti in sicurezza? Perché spesso quando insorgono dei problemi, delle malattie alimentari, noi siamo portati a pensare che è un problema legato a qualcun altro, cioè a chi ci dà da mangiare, non siamo noi a gestire male l'alimentazione. In realtà, dove possono insorgere i problemi? I problemi possono insorgere in tutti i vari punti della filiera produttiva, quindi sia dalla produzione primaria, passando per appunto la macellazione e il processo, però vedete in giallo l'ultima fase è quella della preparazione del consumo che può avvenire nei locali dedicati, locali pubblici oppure a casa. E questo quindi ci fa già capire che l'ultima fase, quella che magari gestiamo noi, può essere altrettanto delicata come quella di un produttore artigianale o di una produzione industriale. Tant'è che secondo il report dell'EFSA, l'autorità appunto che ha nominato prima il collega Donato, il 40% appunto dei focolai deriva a origine a livello domestico. Questo perché delle volte succede spesso che non siamo consapevoli dei rischi, quindi dei rischi che possono essere legati appunto a una cattiva conservazione del prodotto, dei rischi legati al nostro comportamento sbagliato, sia nelle procedure, nella gestione delle temperature, sia appunto nelle tecnologie, oppure come gestiamo gli alimenti per cui provochiamo delle contaminazioni senza volerlo. E quindi questo, se fossimo, cioè, se qualcuno volesse andare a vedere, è tutto. Cioè, tutto un database a livello europeo, ma non solo, poi si può anche fare una ricerca molto più approfondita secondo gli stati. Questo è, insomma, è una panoramica di quelle che sono state le malattie alimentari che possono essere infezioni intossicazioni alimentari, quindi legate allo sviluppo microbico o alla presenza di tossine, negli ultimi 4 anni, dove in Italia si sono avuti 714 ospedalizzazioni e anche 16 morti. Ora, detto questo, noi non parleremo di chi fa cosa, non diremo sì, la salmonella, il clostridio, cioè magari li citiamo così perché ecco, sono lezioni, cioè sono argomenti chiaramente che avrebbero bisogno di molto tempo però per rispondere a come conservare in sicurezza un alimento bisogna capire perché, prima di tutto, perché l'alimento va male, quindi che sia una materia prima, che sia un prodotto trasformato che noi magari prendiamo, acquistiamo al supermercato, apriamo la confezione, chiaramente dobbiamo renderci conto che le cause di deterioramento sono riconducibili a diversi fenomeni che possono essere fisici, chimici, microbici e poi altre legate magari a infestazioni. Diciamo che soprattutto in questa presentazione avremo a che fare soprattutto con sviluppo microbico, perché quelle che sono le cause di alterazione fisiche e chimiche possono portare ovviamente delle alterazioni del prodotto, però complessivamente, e chiaramente io ho, no, tu stessa Marta dicevi, ma io ho questo in frigorifero, come faccio a capirlo? No, magari perché una una reazione di degradazione può portare diverse conseguenze in funzione di quella che è la reazione di partenza. E poi è anche vero che gli alimenti sono sistemi molto complessi, non abbiamo mai una singola reazione che avviene, quindi accanto a uno sviluppo microbico c'è poi tutta una, no, una reazione chimica, un problema fisico, quindi, però non portano tutti alle stesse conseguenze, quindi generalmente se ho un problema di natura chimico, di natura chimica o fisica, quello che posso verificare in un prodotto alimentare è la perdita di consistenza, un odore, sapore sgradevole, anche una diminuzione delle proprietà nutrizionali, però diciamo questo porta a una diminuzione della qualità del prodotto. Però in certi casi, soprattutto se la reazione di degradazione è legata a uno sviluppo microbico, in funzione del tipo di microorganismo possono esserci problemi più seri perché abbiamo un problema di sicurezza alimentare. E quindi intervengono in questo caso le tecnologie di conservazione, che sono tutte quelle tecnologie che sia l'industria di diversa dimensione, sia proprio il produttore, ma anche a livello domestico, quello che facciamo quando prepariamo dei prodotti è mettere in atto delle operazioni, delle tecnologie. E quindi adesso, volendo dare delle informazioni di carattere proprio pratico, noi quando andiamo al supermercato chiaramente ci troviamo di fronte tanti prodotti alimentari, però questi prodotti derivano da tecnologie differenti che vengono utilizzate spesso in combinazione. Però volendo identificare quattro grandi insiemi, sono quelli che troviamo nella slide. Quindi abbiamo prodotti che sono disidratati, che sono appunto basati, la cui stabilità è legata al fatto che abbiamo tolto l'acqua dal sistema. Perché ho dimenticato di dirvi una cosa importante, che le reazioni, siano esse fisiche, chimiche, microbiologiche, per avvenire devono avere una serie di condizioni favorevoli e l'acqua sicuramente è una di queste, quindi la presenza di acqua, le condizioni di temperatura, l'acidità del sistema, quindi sono tutte variabili che incidono sulla velocità con cui questi fenomeni avvengono. Quindi è chiaro che se dobbiamo conservare dobbiamo agire proprio su questi. Quindi i prodotti in cui viene tolta l'acqua, il classico esempio è la pasta è un prodotto disidratato, quindi è praticamente una categoria in cui noi abbiamo rimosso l'elemento acqua, ma poi abbiamo anche i prodotti che basano la loro conservabilità sull'utilizzo di basse temperature, e qui abbiamo quindi i prodotti refrigerati e i prodotti congelati, quindi un grande insieme all'interno del quale abbiamo però due sottocategorie, quindi il banco frigo e il banco dei surgelati congelati, dove in un caso l'acqua è ancora allo stato liquido e in un altro caso in cui invece abbiamo il prodotto dove l'acqua è in stato congelato. Poi abbiamo l'utilizzo delle alte temperature, qui quindi faccio riferimento a tutti i prodotti che sono stati pastorizzati, sterilizzati, quindi qui abbiamo alcuni esempi di prodotti che sono sterilizzati. Faccio una piccola precisazione. E spesso molti prodotti che sono in banco frigo e prodotti che sono in banco surgelati hanno subito anche un processo di scottatura, quindi un breve passaggio termico, oppure una pastorizzazione. È chiaro che poi questi interventi, in base alla loro entità e come vengono svolti, praticamente possono assicurare una conservabilità a medio termine o a lungo termine. L'ultima categoria che vediamo è quella che vede l'utilizzo di cosa? Di composti che vengono formati per via magari metabolica fermentativa dai microrganismi buoni, oppure che usiamo noi, quindi parliamo dei sottoli, dei sottaceti e dei prodotti in cui abbiamo utilizzato sale o zucchero per conservare, quindi viene in mente appunto la marmellata o confettura, tanto adesso le possiamo chiamare allo stesso modo, oppure il baccalà, che è un prodotto in cui la conservabilità è legata all'utilizzo di sale che ha bloccato l'acqua legandola. Quindi queste sono le quattro principali categorie di stabilizzazione dei prodotti. Ora, tornando al discorso, ricollegandomi a quello che diceva il collega Donato, chiaramente noi dobbiamo stare un po' attenti, perché siamo noi stessi come consumatori a definire le linee di tendenza nel mercato. Quindi chiaramente cosa vogliamo adesso? Vogliamo prodotti light, prodotti senza zucchero, prodotti senza sale, prodotti con ridotto tenuto appunto di grasso, che sono però le stesse barriere che possiamo utilizzare contro i microrganismi. Quindi la salsiccia a ridotto contenuto di sale può essere, ahimè, pericolosa, perché nel momento in cui utilizziamo meno sale mettiamo un prodotto un po' a rischio. Qui da una parte vogliamo il prodotto sempre molto tendente al fresco, però D'altra parte ci interessa che sia facile da preparare, ma che abbia anche qualche giorno in frigo di stabilità, così se non vado a fare la spesa quel giorno comunque sto parata per la cena. Quindi questo significa che noi, cioè che l'industria, chi trasforma gli alimenti, deve mettere in atto una serie di ostacoli allo sviluppo microbico in questo caso, o a una reazione di natura chimica o fisica. Quindi l'industria adesso cosa fa? Utilizza vari di questi ostacoli, e quindi per il microorganismo diventa una corsa ostacoli, avere tanti ostacoli, e alla fine la stabilità del prodotto dipende appunto dalla combinazione che viene utilizzata. Velocemente, quando quindi andiamo al supermercato, adesso chiaramente voi non è che possiamo fare la lezione di merceologia perché non ha senso, però intanto vi voglio dire che in base al tipo di lavorazione e alla conservazione, gli alimenti al supermercato sono divisi in queste gamme, quello che interessa è che dalla prima all'ultima chiaramente cambia la modalità con cui sono prodotti, e quindi la prima gamma sono prodotti freschi e deperibili, la seconda gamma i prodotti conservati che sono stabili quindi a temperatura ambiente, la terza gamma i prodotti congelati e surgelati, quarta gamma i prodotti ortofrutticoli, chi di noi non compra l'insalata in busta già pronta, ecco quello è un classico esempio di quarta gamma, la quinta gamma è simile alla quarta solo che è stato aggiunto un processo di cottura, e quindi sono le lasagne già che sono state precotte, la pizza eccetera. Ora chiaramente noi andiamo al supermercato, non è che possiamo andare col manuale o con il Moleskine in cui abbiamo scritto gli appunti, no? Dobbiamo essere molto pragmatici, e quindi mi devo imparare le gamme dei prodotti? No, assolutamente no. Quello che dobbiamo fare è capire che nel momento in cui entriamo al supermercato abbiamo tre punti, no, che si differenziano molto: il corridoio che non è condizionato, quindi la temperatura ambiente, la conserva, quindi un alimento non deperibile a temperatura ambiente, i prodotti che sono nel banco frigo e poi il banco surgelati. Quindi sono queste tre grandi categorie che alla fine verso le quali si riconducono le quattro tipologie di intervento. Ora, quindi non dobbiamo conoscere le gamme necessariamente, se le conosciamo è meglio, però quello che dobbiamo fare è leggere l'etichetta, quindi leggere l'etichetta per le informazioni nutrizionali, cercando però di avere un approccio critico. In questo caso il produttore deve dirci, è obbligato a dirci le modalità con cui il prodotto deve essere conservato e anche le modalità di cottura o l'uso. Chiaramente oltre a tutto c'è anche la data di scadenza e il termine minimo di conservazione. Sono la stessa cosa? Sì, ci dicono quanto dura un prodotto. La data di scadenza però è legata ai prodotti deperibili, mentre il termine minimo di conservazione è legato ai prodotti che possono avere una conservabilità più lunga nel tempo. Tant'è che per la data di scadenza il fenomeno di deterioramento è legato a uno sviluppo microbico, e la data di scadenza riporta proprio il giorno, mese e anno, d'accordo? Mentre il termine minimo solitamente si identifica con un mese e l'anno, quindi in funzione del prodotto questo può durare nel tempo. Qui è riportata una etichetta, la parte solo relativa alla preparazione e a come deve essere conservato. Diciamo che molte problematiche, se ricordate nei mesi precedenti il problema della pizza surgelata in Francia, che ha causato anche dei morti, è vero che c'era un problema di contaminazione legata a quel prodotto derivante dalla gestione in azienda, ma se il prodotto, la pizza, fosse stata cotta, avesse quindi il consumatore avesse seguito bene le indicazioni del produttore, il problema sarebbe stato risolto, perché praticamente il microorganismo sarebbe morto con il calore, d'accordo? Quindi bisogna prestare attenzione, cioè non dobbiamo essere pigri, quindi leggere l'etichetta e seguire le indicazioni il più possibile. Ora, quindi, mettendo insieme le due categorie di prodotto, quindi conserve, prodotti a lunga durabilità e prodotti deperibili, guardiamo come cambia il livello di attenzione, come dovrebbe cambiare il livello di attenzione in funzione appunto se siamo prima dell'apertura della confezione o dopo. Se siamo prima dell'apertura, la nostra attenzione deve essere sbilanciata verso i prodotti deperibili e quindi quelli con la data di scadenza, per intenderci quelli che compriamo al banco frigo e al banco surgelati, quindi seguire rigorosamente la catena del freddo. Per le conserve siamo un po' più tranquilli perché li compriamo a temperatura ambiente, se il confezionamento è ancora idoneo semplicemente continuiamo a tenere una dispensa in un luogo fresco e asciutto. Ma dopo l'apertura della confezione noi abbattiamo tutto quello che è una barriera che era stata messa con la produzione, quindi il trattamento termico, la sterilizzazione, il confezionamento, tutto questo viene praticamente vanificato, no? Apriamo, quindi di nuovo il prodotto comincia a essere deperibile, sensibile, vulnerabile. E quindi che cosa succede dopo che apriamo la confezione? Dobbiamo un po' guardare che tipo di prodotto abbiamo di fronte. Quindi se abbiamo un prodotto tipo la pasta, in quel caso il prodotto deve essere, si può semplicemente richiudere in maniera corretta nella sua confezione e riposta nella stessa situazione antecedente. Ma questo perché? Perché la pasta è secca, d'accordo? Quindi non c'è l'acqua, è un sistema che comunque continua a essere stabile anche dopo l'apertura. Se invece stiamo parlando di prodotti che hanno ancora acqua dentro, l'acqua è necessaria per la nostra vita, è necessaria anche per i microrganismi. Quindi anche se il prodotto è in partenza stabile a temperatura ambiente come una passata, a quel punto dobbiamo utilizzare la catena del freddo e quindi riporre il prodotto a temperatura di refrigerazione, così come il latte fresco. Quindi nel momento in cui apriamo la confezione, i prodotti deperibili si dividono in due categorie: quelli che senza acqua possono andare a temperatura ambiente o con bassa attività dell'acqua, così la chiamiamo, non è proprio il contenuto in acqua ma la sua capacità di reagire, e invece i prodotti che invece sono ancora molto umidi e che quindi devono andare in frigorifero. Ma a proposito di frigorifero, il frigorifero deve essere trattato con molta attenzione, sì, perché? Perché la cosa che dobbiamo capire è che all'interno del frigorifero la temperatura non è assolutamente costante, quindi ogni ripiano ha una temperatura e questa temperatura chiaramente si adatta alla conservazione di specifici prodotti. Quindi questa è un'immagine che non ho fatto io, ho preso dal web e ho modificato un pochino, perché su questa immagine la prima cosa che non andava bene è vedere le uova sullo sportello, così come il latte o il burro sullo sportello. Lo sportello è la zona con più alta variabilità di temperatura, quindi dobbiamo riporre sullo sportello solo quello che siamo sicuri non ha problemi e non è sensibile a variazioni termiche, quindi prodotti acidi o magari bevande di fantasia, d'accordo? Le uova dove vanno? Le uova hanno un problema legato soprattutto allo sbalzo termico e alla formazione di condensa sul guscio, quindi le uova non hanno bisogno di molto freddo, quindi non vanno riposte nel ripiano in basso che invece è dedicato alla carne cruda, al pesce crudo e ai molluschi che sono molto deperibili, la cui durabilità è di 2 giorni a bassa temperatura, 2-3 giorni massimo. Le uova possono star bene anche a 10 gradi, però non devono avere sbalzi termici, per quello devono andare in alto. E vedete quindi il cassetto delle verdure e della frutta che garantisce il mantenimento della temperatura sui 10 gradi e umidità relativa costante. Il ripiano più freddo è quello subito sopra al cassetto, d'accordo? Quindi vedete come vanno distribuiti gli alimenti, quindi considerate sempre che la temperatura appunto varia all'interno del frigorifero. Ecco, quello che voglio poi sottolineare in questo caso è anche attenzione, spesso si vedono frigoriferi in cui sono riposti alimenti crudi, alimenti cotti vicino, nello stesso ripiano, ma non confezionati. E questo è un problema perché le contaminazioni sono praticamente molto, molto probabili, quindi devono essere riposti in maniera assolutamente rigorosa, possibilmente su ripiani diversi. Il crudo solitamente ha bisogno di una temperatura più bassa, ma qualora decidessimo di utilizzare la stessa temperatura è importante che siano confezionati e separati, perché altrimenti la contaminazione, voi dovete pensare che un prodotto cotto magari lo riscaldate velocemente è stato contaminato, non date sufficiente calore per sanificarlo, d'accordo? Quindi anche nel frigorifero si possono avere delle insidie. Quanto dura un prodotto dopo che è stato aperto? La sua durata è molto variabile, quindi questa è una tabella a titolo puramente semplificativo, chiaramente non è completa questa tabella, è chiaro che dipende molto dal tipo di prodotto e da come è stato trattato. Prendo l'esempio degli affettati, che praticamente se prendete al banco salumi durano 3 giorni, 5 giorni al massimo, se invece prendete quelli in atmosfera modificata, la stabilità, se la confezione è mantenuta chiusa, può arrivare a 3 mesi. Sì, d'accordo, quindi per questo dico leggete sempre bene l'etichetta, perché lì sono riportate le indicazioni più idonee per ogni tipo di alimento, d'accordo? Quindi È molto variabile. Ma dove dobbiamo riporre i prodotti? Abbiamo varie, chiaramente il vetro è il prodotto, il materiale più inerte. Tutti i materiali devono venire a contatto con gli alimenti, ovviamente devono rispondere a dei requisiti molto rigorosi, perché devono avere appunto il contatto. Sono diversi, abbiamo vetro, plastica, alluminio, l'acciaio è per antonomasia il materiale che può essere a contatto perché come il vetro è inerte. È abbastanza inerte, diciamo, è sicuramente il più inerte rispetto alla plastica e all'alluminio. Attenzione alla plastica e all'alluminio. Perché? Perché chiaramente abbiamo tante tipologie di plastica, quindi, e non tutte hanno le stesse performance. Quindi io non ho voluto riportare un elenco. Anche in questo caso, sui contenitori di plastica sono riportate le condizioni di utilizzo. E quindi vedete, in questo caso è un contenitore di plastica rigida, può andare al microonde, può andare in lavastoviglie, la sua stabilità termica è tra 110 e meno 20 gradi, quindi posso sia usarlo al microonde, posso utilizzarlo anche in congelatore. Ma questo è un contenitore in polipropilene. Se io prendo i piatti di plastica che si utilizzano praticamente comunemente, vedete, è un altro tipo di plastica, è un polietilene a bassa densità. In questo caso non posso utilizzarlo né nel forno né portarlo al microonde. Quindi attenzione anche ai contenitori che utilizziamo. E l'altra cosa è che alluminio è molto utile per conservare i prodotti, però i prodotti non devono essere acidi e non devono essere salati, d'accordo? Se abbiamo alte concentrazioni di sale e prodotti acidi, queste due caratteristiche cosa fanno? Fanno in modo che ci sia migrazione del metallo e quindi insieme al nostro prodotto ci mangiamo un po' di metallo, il che non va assolutamente bene. Ma anche questo è scritto, è tutto scritto, quindi assolutamente. Ecco, combattere la pigrizia, questo è molto importante, leggere bene in etichetta. L'ultima cosa che voglio affrontare con voi è cosa succede se dobbiamo preparare una conserva a livello domestico. Magari abbiamo l'orto, siamo riusciti a coltivare qualcosa sul nostro balcone, abbiamo preso un pezzo di terra. Benissimo. Allora, innanzitutto voglio dirvi, è una situazione assolutamente delicata, d'accordo? Questa va trattata con molta attenzione, tant'è che il Ministero della Salute ha promosso la pubblicazione di opuscoli per la conservazione domestica. Quindi quello che vi invito a fare è intanto prendere visione di questo documento in cui sono trattati tutti i vari casi. E l'esempio che vi porto è quello classico dei sottoli. Quindi questa è una classica procedura, quello che si chiama in gergo tecnico il diagramma di flusso, cioè l'insieme delle operazioni che dobbiamo fare. Spesso mi succede che mi portano dei prodotti, mi dicono: ti ho fatto questi, guarda, sono funghi che ho raccolto, no? Guarda. Io, dimmi un po' come l'hai fatto, e così li rifaccio, perché voglio sapere come sono stati fatti, ovviamente, no? Non mi fido. E spesse volte capita che il sottolio non venga scottato in presenza di acido, quindi noi cosa dobbiamo fare? Il problema del sottolio è il botulino, d'accordo? Quindi il botulino è un patogeno che sta benissimo senza ossigeno, è un anaerobio. Quindi quando abbiamo tutti i sottoli, dobbiamo stare attenti perché se non garantiamo le condizioni di sicurezza, il botulino può sviluppare, ma soprattutto può produrre la sua tossina. Cosa dobbiamo fare? Il botulino sta male se il pH è sotto 4,5, d'accordo? Quindi cosa dobbiamo? Dobbiamo acidificare. Quindi se siamo a casa e vogliamo fare i sottoli, quella è una fase fondamentale. Così come abbiamo tanta frutta, benissimo. Il problema adesso vogliamo la confettura senza troppi zuccheri, ma lo zucchero ha un effetto contro il botulino. Quindi infatti perché sia sano, cioè che sia sicuro contro il botulino, la confettura deve avere un rapporto zuccheri-frutta 1 a 1. Cavoli, sono tanti zuccheri, vero? Sono tanti. Benissimo. Allora, non vogliamo utilizzare quella quantità di zucchero, dobbiamo acidificare. Quindi bisogna rendersi conto che abbiamo modo di gestire queste variabili. Però ecco, la casistica delle conserve fatte in casa è molto ampia e molto variegata. Per quello il tempo a disposizione è poco. Quello che ovviamente sono a disposizione se ci sono curiosità, ma vi stimolo e insomma, vi esorto ad andare a vedere questo manuale in cui molti nostri docenti dell'Università di Teramo hanno scritto, hanno contribuito a questo volume. Quindi ci sono tutte le casistiche, qualora vogliate cimentarvi nella produzione di conserve fatte in casa, per farle in sicurezza, questo è sicuramente un punto di riferimento. L'ultima cosa che volevo dire, nel 2016 credo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato questi 5 punti per alimenti più sicuri anche a livello domestico, e come vedete ci sono 5 step che sono banali, ma che dobbiamo far entrare nelle nostre abitudini. Tutta l'igiene delle nostre mani, che con il Covid abbiamo sicuramente migliorato, ma anche l'igiene di tutto quello che va a contatto con l'alimento, quindi avere le cucine, i piani puliti, gli attrezzi puliti. Separare gli alimenti crudi da quelli cotti, ovviamente, perché il crudo può avere un contaminante che poi in cottura togliamo. Il cotto che non scaldiamo bene poi in realtà potrebbe farci male. Cosa succede? Qualche mal di pancia, vomito, diarrea, ma in alcuni casi anche, abbiamo visto, ci sono state ospedalizzazioni. L'altra cosa da fare è far cuocere bene gli alimenti, tenere gli alimenti alla giusta temperatura, questo sia che il prodotto sia da frigo, congelatore, ma sia anche quando deve essere mantenuto caldo, d'accordo? E poi anche partire da materie prime che siano sicure, che siano comunque selezionate. Quando parliamo di materie prime parliamo anche dell'acqua, d'accordo, che utilizziamo durante la nostra produzione. E questo sostanzialmente è la pagina, volevo riportarvi la pagina del Ministero che riporta gli stessi punti. Io con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Dio, non vedo che parla.